E ben ritrovati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc, puntata con ospite una storica band veronese che stasera ci presenterà il loro nuovo disco. A voi le presentazioni. Ciao a tutti, siamo gli Ex, io sono Stefano chitarra, Ago al basso, io sono Adriano batteria e io sono Robby voce. E con gli Ex, una prima parte all'insegna dell'hard blues dei primi anni 70, con formazioni meno note ma non per questo significative. Prima canzone trasmessa era degli Humble Pie dal disco Smoking del 1972, che aveva titolo Sweet Peace and Time, formazione grintosa che aveva nel suo fulcro il cantante chitarrista Stevie Marriott e che meriterebbe maggiore riscoperta. Cosa ne pensate? Io me li ricordo questi qua, però quando c'era Peter Frampton, agli inizi, penso i primi album, mi piacevano molto, a parte che anche il pezzo che abbiamo sentito è molto bello, sono un pre-hard rock che a noi piace molto. Come gruppo ci ispiriamo proprio anche alla musica anni 70, quindi ottimo. Gli Ex sono assieme dal 1997, come nasce la band e il significato del vostro nome così stringato? Allora, niente, è semplice, la band nasce da vari componenti di altre band, quindi da lì nasce il nome Ex. Ex di qualcosa, ex di una band, ex di un lavoro, ex di amici. Siamo sempre tutti ex. Siamo sempre ex. È il destino della vita. Esatto. E poi praticamente vari cambi e fino a questa formazione che sembra funzionare, ecco, stabile. Esatto, stabile. Ancora musica rock e continuiamo con i Foghat, nati dalle ceneri di Savoy Brown, formazione rock blues inglese, virano verso un boogie rock che conquisterà molti fans negli Stati Uniti. Nel 1975 esce Food for the City, che contiene uno dei loro classici, Slow Ride. Slow ride. Altra band che meriterebbe maggiore attenzione, ma che non viene mai, quasi mai, citata dal pubblico italiano. Che ne dite? Ma sì, in effetti questa qua, la canzone è famosa, come gruppo io non lo conosco particolarmente bene, però si sente che è quel blues rock dei primi anni 70. Tra l'altro anche noi ci rifacciamo spesso anche a gruppi meno conosciuti, insomma, quindi il feeling è quello, insomma, è quello giusto. Vostre esibizioni come sono andate, quali le più importanti in termini di esperienza, le impressioni che avete raccolto dal pubblico alla fine dei live? Allora, beh, guarda, tutti i live sono belli, tutti i live sono unici, ma ricordare forse quelli più importanti, non so, a Fiamme, né, o se no altri locali importanti che non ci sono più, il Posto o anche l'Usignolo, vecchie, ma anche i nuovi non sono da dimenticare, tutti belli comunque. Anche la gente rimane sempre contenta, la soddisfazione per noi è quella, noi sicuramente ci si diverte, ma l'importante poi è che la gente quando finisce il concerto venga lì, ti dice si sentiva bene, è stato bello, insomma, quindi la soddisfazione per tutti. Concludiamo dunque questa prima parte con i Captain Beyond, formati dal primo cantante dei Deep Purple, Rod Evans. Non hanno trovato molta fortuna nonostante avessero un hard rock sound che cercava una via originale. Dal primo omonimo disco il brano Dancing Madly Backwards, fra poco per la seconda.